vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 21 luglio, il sole in regione sorto alle 5.37 tramonterà alle 20.50. Oggi c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. Nuova convenzione tra Università di Udine e Fondazione Friuli con importanti ricadute nel settore agroalimentare. Anche le aree incolte avevano nella gestione del territorio agrario una loro funzione e importanza. Sono queste settimane favorevoli per una serie di innesti con una tecnica speciale. Tra i compiti dei sommelier anche quelli di un'informazione sul consumo responsabile del vino. Semplici ma strategici accorgimenti per preparare in casa una ottima frutta sotto spirito. Per la rubrica dei fiori, il Lisianthus, conosciuto anche come Eustoma, ottima pianta da vaso ma anche da reciso. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Quest'anno l'annuale convenzione tra l'Università di Udine e la Fondazione Friuli è stata firmata in un vigneto, nei filari di un vigneto dell'azienda agricola Servadei dell'Università. Dimostrazione che tra Università e Fondazione Friuli c'è parecchia attenzione al mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Cosa è stato fatto e cosa si farà? Lo chiediamo a Edi Piesentier, che è il direttore del Dipartimento di Agraria dell'Ateneo Friulano. La Fondazione Friuli in effetti è un partner fondamentale dell'Ateneo, no? È tra i maggiori sostenitori dell'Università e c'è proprio piena condivisione nella necessità di dare delle risposte innovative al comparto produttivo territoriale, a quello agricolo. Quali progetti stanno arrivando in porto? Innanzitutto si sono confermati quelli che sono appunto gli impegni a favore del mondo agroindustriale, sostenendo ad esempio i corsi di studio innovativi che stiamo in questo momento aprendo, come quello in scienza ed economia del cibo, la didattica poi anche laboratoriale. Ricordiamo che a settembre andremo ad inaugurare il laboratorio di ricerca agroalimentare, il LARA, nella Village, prevede degli impianti piloti destinati a portare proprio su una scala preindustriale i prototipi di nuovi processi e di nuovi prodotti alimentari. Questo va ad insediarsi vicino al laboratorio di analisi sensoriale, operativo ormai da alcuni anni, entrambi messi a punto per il trasferimento tecnologico e l'innovazione in campo agroalimentare. E si sta per inaugurare, molti l'aspettano, una cantina sperimentale. È certo, perché la prossima settimana, giovedì della prossima settimana, andremo ad inaugurare la nuova cantina sperimentale. È una struttura di supporto appunto alla ricerca viticola e enologica dell'Ateneo. Ricordo che in questi ultimi 3 anni abbiamo indicativamente svolto in questa struttura 100 prove di microvinificazione all'anno. Ecco, grazie alle strutture che sono state realizzate, le attrezzature acquisite con il supporto della Fondazione Friuli, la cantina esistente sarà fortemente potenziata, no? Per trasformarla proprio in una struttura flessibile che consente di realizzare test su piccola scala ma con le stesse modalità con le quali si svolgono a livello industriale. E quindi, poi ci saranno tante iniziative di trasferimento tecnologico, nuove tecnologie, nuove prassi per l'agricoltura. Certamente, soprattutto riguardanti l'energia, no? Le fonti rinnovabili di energia e diciamo quella che è la transizione digitale nella quale siamo impegnati. Ricordo in particolare che sempre in azienda Servadei è in fase di installazione il Future Energy Park, strumenti come lo specchio lineare, il gasificatore compatto, le stufe pirolitiche, che sono tecnologie che sono per sfruttare, no? Le fonti di energia rinnovabili che sono state state messe appunto proprio dai ricercatori della nostra università. Queste vengono messe in opera, producono energia che serve a far funzionare alcuni elementi dell'azienda, ad esempio le serre per quanto riguarda lo specchio lineare, e poi si rendono disponibili e fruibili per il pubblico, per la cittadinanza, che le può verificare nella loro funzionalità, nella loro utilità. E poi c'è il Servadei Demo Live, cioè questo è il nuovo progetto che si sta lanciando in azienda Servadei, sempre grazie alla Fondazione Friuli, al suo contributo, che vuole appunto realizzare in azienda agraria delle attività dimostrative riguardanti l'agricoltura, soprattutto l'agricoltura 4.0. Nelle campagne di una volta anche il pustoto, ovvero le aree incolte, avevano una funzione, una utilità, perlomeno per le scorribande dei monelli, come ci racconta Angelo Floramo. Si apriva appena fuori dal borgo, terra incolta, non seminata. Pustot, in lingua friulana, antica parola di ceppo slavo, a ricordare le contaminazioni meravigliose di questa nostra civiltà contadina, cresciuta sul bordo dei mondi, a cavallo tra le culture, le tradizioni, gli accenti che gli antenati disseminarono ovunque, nei toponimi, nel nome degli alberi, dei ruscelli o delle colline. L'etimo indica genericamente tutto ciò che non è antropizzato, libero dal controllo dell'umano, selvatico dunque, quindi desolato, ribelle, disubbidiente e resistente nello stesso tempo, una landa deserta sulla quale signoreggiavano i pruni, i cespugli, le acace, spazio buono per lepri e conigli, tana del tasso e della volpe, prateria per la pastura del cinghiale o del capriolo, non propriamente il bosco, denso di ombre antiche, profondo tempio di legni e tronchi centenari, la boscaglia semmai, inestricabile groviglio di rovi, ma anche terra paludosa, zona umida, misteriosa, adatta alle esplorazioni dei monelli, quella vivace schiera di ribaldi alla quale mi glorio di aver appartenuto negli anni verdi e liberi dell'inconsapevolezza. Un tempo nemmeno tanto lontano era una riserva alimentare di straordinaria importanza nell'economia povera, quella della sussistenza, che sulla tavola sempre sguarnita gradiva anche le radici, le bacche e le erbe saporose, la cui raccolta era indirizzata dalla sapienza millenaria delle donne, da sempre sciamane e raccoglitrici. L'estate non era tale senza le esplorazioni vissute sempre con grande emozione, in banda o in solitaria, di questo luogo abitato da forze che ci sembravano misteriose e seducenti. Bastava una fionda riposta nella tasca posteriore delle braghe corte o una cerbottana intagliata nelle ramazze del sambuco per sentirsi al sicuro da qualsiasi aggressione. Meravigliosa la sorpresa di trovare nel folto un nido di quaglia capace di regalare uno spuntino freschissimo se la mano, esplorando, raccoglieva qualche uovo dalla cova. I più scaltri e capaci sapevano dove andare a snidare il pesce sole o meglio ancora l'anguilla. La ricompensa era grande se si tornava a casa con un cestino capace di garantire la sapidità muscosa della polpa preparata in un guazzo con i sapori dell'orto. L'ora del rientro era dettata dall'incerto confine tra il giorno e la notte, quando si potevano scorgere le fiammelle dei fuochi fatui. Solo allora si poteva raccontare di non aver incontrato anima viva, che quelle dei morti, invece, erano lì, non a spaventarci, ma a indicarci la via del ritorno. Parlando di innesti, tutti pensano al mese di marzo, ma è questo anche un tempo di innesti, un tempo favorevole, come ci spiega il professor Raffaele Testolin per la rubrica della frutticoltura. Tra la seconda metà di luglio e la seconda metà di agosto, o anche un po' più in là, è tempo di fare gli innesti. Non spaventatevi dei numerosi tipi di innesto che trovate sui libri e anche in rete. Imparate questo che vi descrivo. Vale per quasi tutte le specie che conoscete. L'innesto si chiama a chip budding. È un innesto a gemma dormiente ed ancora più semplice dei vecchi innesti a gemma descritti nei libri di giardinaggio come quelli a T, alla maiorchina e chi più ne ha più ne metta. Le gemme si raccolgono al momento di fare l'innesto, ma dovete avere a disposizione un portinnesto, una piantina di selvatico di un anno su cui fare l'innesto. Se non ci avete pensato per tempo, provate a cercarne una presso un vivaista o nel bosco. Potete con un po' di fortuna ordinarla ancora in vaso su internet per pochi centesimi di euro. Se non riuscite a trovarla, dovete arrendervi. Proseguo per chi il portinnesto ce l'ha. Sulla varietà che volete riprodurre, prelevate un germoglio con la base sufficientemente lignificata. Dalla parte lignificata, prelevate con un coltello da innesti ben affilato qualche gemma con mezzo centimetro di corteccia, prima e dopo. Guardate la foto sul sito web di Vita nei Campi. Sul portinnesto fate un'incisione trasversale sulla corteccia e partendo un centimetro sopra l'incisione togliete una striscia di corteccia. Appoggiate la gemma sulla sede che avete preparato. La gemma che andate ad inserire dovrebbe coprire la superficie tolta. Guardate sempre la foto sul sito di Vita nei Campi. Legate con domopac coprendo bene la gemma, stringendo senza paura di fare danni. Non deve entrare aria nel punto d'innesto. Se volete essere sicuri della riuscita, innestate due o tre gemme sulla stessa pianta. A novembre tagliate il domopac. Alla fine dell'inverno tagliate il portinnesto poco sopra la nuova gemma. Se avete fatto tutto bene, la gemma o le gemme nuove germoglieranno. È fatta. Buona fortuna. Tra gli scopi dell'Associazione Italiana Sommelier ce n'è anche uno sociale, ovvero quello di insegnare a bere responsabilmente, ci dice come Vladimiro Tulisso. Il rapporto tra l'uomo e la bevanda. Si tratta di un legame millenario con la vite, una pianta che, secondo alcuni studiosi, potrebbe aver contribuito, per essere particolarmente esigente e pertanto incompatibile con il nomadismo delle prime comunità umane, alla sedentarizzazione dell'Homo sapiens. Dal Neolitico, vite e vino accompagnano la vita dell'uomo a partire dalle civiltà che si sono sviluppate nell'area del Mediterraneo. Ne è esempio Scorpione I, il più antico dei faraoni di cui abbiamo documentazione. Nella sua tomba, risalente al 3150 avanti Cristo, sono state rinvenute 700 anfore che potevano contenere oltre 4500 litri di vino. Una testimonianza di un legame storico e anche dell'elevato valore riconosciuto al vino. L'uomo non beve solo per dissetarsi, ma anche per provare piacere. Se consumato moderatamente, l'alcol dà gradevoli effetti psicofisici e nel lontano passato molte comunità hanno considerato il vino un regalo degli dèi elevandolo a strumento di ritualità. Tra gli antichi, bere in comunità era la regola e la cultura greca trovò nel simposio il luogo dove il moderato consumo del vino era obbligatorio, dovendo lasciare lucidità alla conversazione e al contraddittorio. Anche noi oggi, quando beviamo assieme agli amici, al bar, in enoteca, a tavola, dovremmo osservare uno stile di vita sobrio per rispettare questa lunga tradizione culturale. Al vino ci si deve avvicinare con cultura, consapevoli della sua storia millenaria, del legame della vite con il paesaggio e l'agricoltura, del ruolo della bevanda alcolica nella convivialità. Consumare vino significa costruire un'educazione al bere consapevole, comprendere che il saper bere ha bisogno, prima di tutto, di misura e responsabilità. Buona estate. Piccoli ma basilari accorgimenti per preparare una corretta frutta sotto spirito, ce li elenca Michela Urbano. C'è una categoria di specialità da realizzare con prodotti freschi di stagione che non può assolutamente mancare nella nostra dispensa. È la frutta sotto spirito. Dal gusto un po' retro che ci riporta nella cantina della nonna o nel salotto buono di qualche zia, la frutta sotto spirito è quel chiù di pasto sempre gradito e mai passato di moda, che trova le sue origini nella vita contadina, quando l'arte della conservazione includeva, oltre alla necessità, anche qualche piccolo piacere. Per conservare la frutta dal deterioramento si può scegliere se utilizzare alcol etilico puro con una gradazione di 90 gradi, così abbiamo la certezza che non sviluppi la tossina del butolino, oppure con gradazione non inferiore ai 45 gradi. In tal caso possiamo scegliere anche superalcolici secchi, quali la grappa, la vodka, il brandy e il rum. La quantità di zucchero aggiunto è utile per rinforzare le pareti cellulari della frutta, aumentandone la conservabilità e garantirne un aroma piacevole nelle gradazioni fino ai 60 gradi. Diventa indispensabile sotto forma di sciroppo di zucchero nelle più alte gradazioni, perché l'alcol molto forte non solo risulterebbe imbevibile, ma danneggerebbe la frutta modificandone la consistenza. La frutta di piccole dimensioni è la più adatta a questo tipo di conservazione, va scelta matura ma soda al tatto. È in questi barattoli, salsi di frutti inebrianti, che la memoria riporta simpatici aneddoti di famiglia, motivo per il quale non possiamo esimerci dal prepararli. Vi lascio dunque una ricetta che sabato al mercato una gentile signora mi ha dato mentre si discuteva sulle ultime ciliegie in offerta. Lavate e tagliate i piccioli, lasciandone attaccato l'ultimo pezzetto, a un chilo di ciliegie sode e perfettamente sane. Asciugatele e mettetele delicatamente nei vasi senza comprimere. Irrorate con tanta grappa quanta ne occorre perché siano coperte. Unite 150 g di zucchero per litro di grappa, un pezzetto di cannella e qualche chiodo di garofano a piacere. Chiudete e dimenticatele in dispensa, al buio per qualche mese. All'occorrenza servitele con parte del loro liquore, facendo attenzione a lasciare sempre immerse quelle che restano nel vaso. Oggi Alessandro Squizzato per la rubrica dei fiori ci propone una scheda sull'Lisianthus, conosciuto anche come ostoma, ottima pianta da vaso ma anche da reciso. Il Lisianthus, conosciuto anche come ostoma, è una pianta erbacea perenne, proveniente dal centro Nord America e fa parte della famiglia delle genzianacee. I fiori, a campana, sbocciano nei mesi estivi e possono essere di colore blu, rosa, bicolori, ma in assoluto il colore più elegante di questa specie è il bianco, molto utilizzato nei matrimoni o cerimonie solenni. Può crescere sino ad un'altezza di 50-60 cm, anche se si sviluppa lentamente e gradualmente. La posizione ideale dell'eustoma è il pieno sole. Si adatta anche alla mezz'ombra, a patto che l'ambiente sia comunque luminoso. Possiamo allevare il nostro Lisianthus in vaso, con del buon terriccio drenante per piante da fiore, abbellendo e dando un tocco di classe anche ai nostri balconi e terrazze. Ogni 2 anni lo possiamo cambiare di vaso in primavera, rinvasandolo in un vaso poco più grande. Aumentare di poco la dimensione del vaso aiuterà la pianta a rimanere sempre in forma ed eviterà i ristagni idrici, dannosi alle sue radici. Se desideriamo, lo possiamo piantare anche in piena terra, a patto che quest'ultima sia soffice e ricca di sostanza organica. Creeremo così un angolino del nostro giardino molto particolare e dal grande effetto scenografico, dove poi potremo andare a recidere gli steli fioriti per abbellire gli interni della nostra casa, a lungo, visto la sua grande resistenza da reciso. Non resiste al freddo intenso. Sarà opportuno, nei mesi invernali, proteggerlo con del tessuto non tessuto e del pacciamante alla base. Dovremo limitare fortemente anche le irrigazioni. Molto importante nell'eustoma è la concimazione, soprattutto in primavera ed estate, mesi di sviluppo e fioritura della pianta. Bisognerà quindi concimarlo 2 volte a settimana, con un concime bilanciato per piante da fiore. Resiste anche a periodi di siccità, ma per il massimo del suo splendore forniamogli l'acqua frequentemente. Non richiede cure particolari, limitiamoci solamente ad asportare il fogliame invecchiato e le parti secche. Per la forma del suo fiore e per il nome greco eustoma, viene considerato nel linguaggio dei fiori come simbolo di affetto, gratitudine e ammirazione verso la persona che lo riceve. E con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,50 e 21,70 euro il quintale IVA esclusa. Il frumento nuovo raccolto tra 17,70 e 19,20 e l'orzo tra 15,70 e 16,40. Discreta l'attività all'ortofrutticolo di Udine con prezzi moderatamente in ribasso. L'insalata gentile e la lattuga trocadero sono quotate da 1,30 a 1,80 euro il chilo IVA esclusa. le zucchine e i cetrioli da 1 a 1 ai 20, i peperoni gialli e rossi da 2 a 2 ai 30, i pomodori in grappolo da 1 ai 50 a 1 ai 80, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce da 2 ai 50 a 2 ai 80, le pere forelle da 2 ai 30 a 2 ai 60, i meloni da 1 ai 50 a 2 ai 80, l'anguria da 0,50 a 1 euro, le pesche e pesche noci da 1,30 a 2,80, le albicocche da 1,80 a 3 euro. Per le condizioni meteo favorevoli l'attività della pesca è proficua, però i prezzi sono diversificati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 14 a 21 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 7 a 29, le canocce da 5 a 14, i palombi da 5 a 12, le mazzancolle da 14 a 18, le capesante da 16 a 18, le seppie da 12 a 16, i calamari da 22 a 30, i gamberetti da 22 a 25 euro il chilo e il granchio blu da 2 a 3 euro. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 50 e 52 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, prezzi in leggero aumento nel comparto degli avicunicoli, il valore dei poli a terra oscilla da 1,32 a 1,36 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,05 a 3,15, i tacchini maschi da 1,68 a 1,70, le faraone da 3,12 a 3,20 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 21 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Francesco Sioni diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. La settimana uscente è stata caratterizzata da una marcata ondata di caldo che ha determinato sulla regione temperature sia minime che massime decisamente al di sopra della media del periodo. Il tutto accompagnato anche da afa. Tuttavia, a chiusura della settimana lavorativa, venerdì una serie di celle temporalesche di forte intensità ha interessato tutta la fascia orientale della regione e la costa, con rovesci localizzati e raffiche di vento forti. A tal merito vale la pena di citare i 108 km all'ora di Gemona e i 111 km all'ora di Fossalon di Grado. Passando ora alle previsioni per la settimana entrante, a partire da questo pomeriggio altri temporali si svilupperanno su Alpi e Prealpi Carniche e si estenderanno poi anche sulle Giulie e sull'Alta Pianura. Sebbene questi non saranno temporali forti come quelli di venerdì, potremo comunque avere rovesci localizzati e raffiche di vento sostenute. Le previsioni per questa sera sono parzialmente incerte e non si può escludere anche un secondo passaggio temporalesco che riguarderebbe pianura e costa, il quale potrebbe portare su queste zone a raffiche di vento sostenute o forti da ovest. Lunedì e martedì saranno due giornate simili, con rovesci temporali principalmente confinati alla zona montana, mentre sulla pianura e sulla costa il tempo sarà migliore, con cielo poco nuvoloso. Da mercoledì in poi non sono attese precipitazioni significative sulla regione, se non dovute ai normali rovesci pomeridiani in montagna. Le temperature medie della settimana saranno in norma con il periodo o leggermente al di sotto della norma. Questo sarà valido almeno fino a venerdì prossimo. Da sabato un riavvicinamento dell'anticiclone nordafricano potrebbe portare a una nuova e veloce risalita delle temperature. Questa è la tendenza per la settimana entrante, ma in ogni caso raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Sante Maria e Maddalene, ogni raf si semene, ovvero il giorno di Santa Maria Maddalena, il 22 luglio, si può seminare ogni sorta di rapa. Coordinamento tecnico di Daniel Apposto, il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Miccoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.